piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Che cos'è un film senza la musica? Io vi presento un maestro già conosciuto per aver composto bellissime canzoni, Ennio Morricone. Per un pugno di dollari, quanti strumenti hai usati? I principali strumenti sono tre. L'armonica a bocca, poi un fischio e una tromba. Armonica a bocca, un fischio e una tromba. Ma che controfasi. Capite il genio italiano della congiuntura? Capite? Con nulla si fa veramente tutto. Una tromba, chi è la tua tromba? Perché vale la pena conoscere il nome. La tromba è molto brava. E si Michele chiama? Lacerenza. Michele Lacerenza. E l'ha tagliato. Tagliato come un arcangelo su una nube, ci farà udire la tromba del giudizio e noi andiamo a dare un giudizio sulla tromba. Questa è la classica tromba che ci fa riconoscere tutte le colonne sonore dei film di Ennio Morricone, è la tromba di Michele Lacerenza. Questa è un'intervista che Walter Chiari fa con Ennio Morricone, tratta da un documentario per Di Fiato, storia di Michele Lacerenza di Giuseppe Sansonna. Oggi parliamo di Ennio Morricone, anche perché la cronaca è oramai nota a tutti, avete sentito nei giornali radio, è morto questa notte per un seguito di un incidente, aveva 91 anni, è morto in pace, è morto sereno, è morto consapevole di aver lasciato una traccia che difficilmente potrà estinguersi. Le musiche legate ai suoi film sono per molte generazioni state un po' il filo rosso che ha seguito fasi importanti della propria vita. Io, ragazzo degli anni 50, ricordo quelli che vengono definiti western all'italiana come un momento fatale, fondamentale. Ero un ragazzino, poco più che un ragazzino, e andavamo a vedere questi film che avevano la loro serialità per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto, il cattivo. Ancora non sapevamo nemmeno chi poi... potevamo immaginare sarebbe diventato Clint Eastwood. E poi nei nostri giochi infantili ci mettevamo addosso uno straccio, uno scialletto della nonna, una copertina presa in qualche baule e giocavamo a combattere facendo l'eroe di un pugno di dollari. Poi per molti di voi ci saranno stati molti momenti di passaggi fondamentali della propria vita legati a dei film che vi ricordate più che per quello che avete visto, per il sound, per la musica di Ennio Morricone. Quindi questa mattina, lungi dall'idea di essere dei fabbricatori di coccodrilli, vogliamo parlare con il pubblico e vogliamo sapere quanto per loro ha significato Ennio Morricone. Lo facciamo con un gradito ritorno a più voci, molte volte, scrivendo petizioni, facendo suppliche, creando catene umane, scioperi della fame. Molte persone affezionate a questa trasmissione chiedevano il ritorno di Giuseppe Sansonna, mio fedele compagno di trasmissione per tantissime puntate. Ma Giuseppe Sansonna è diventato una persona importante, oggi è un regista, un saggista, non è più quel povero ragazzo pugliese che veniva in cambio di un tramezzino e un bicchiere d'acqua a parlare alle nostre trasmissioni, ma oggi si è nuovamente concesso, e con lui, autore del documentario dedicato a Michele Lacerenza, parleremo di Ennio Morricone. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. La miseria è rimasta quella di allora e il cuore grande anche, quindi il nostro legame è indissolubile. Mi fa piacere che la miseria ci accomuni. Senti, oggi è una giornata che, anche se certo una persona che se ne va, che scompare, è un momento di dispiacere, di contrizione, però oggi è la giornata dell'apoteosi di Ennio Morricone. Oggi veramente passa a pieno diritto nell'Olimpo delle persone che hanno lasciato tracce, che moriranno assieme a noi nella nostra vita. Come era valutato Morricone all'inizio, in questa intervista, in questo documentario? Parlami di questo documentario, così contestualizziamo un po' la storia di Morricone. All'inizio i suoi film, le musiche dei suoi film, quelli che non ricordavamo, non cito La battaglia di Algeri, che è un film che chi ascolta soltanto se molto attempato si ricorda, fu un film che dava molto vigore alla neodestra italiana, si vedeva le truppe della legione straniera che riconquistavano la casba di Algeri, gli algerini erano i cattivi, i legionari Massu erano i buoni, quindi la destra a quel tempo, si era negli anni 70, era molto rinfocolata da questo film, si andava a vedere come un film cult. Ma i film cosiddetti western all'italiana venivano considerati dei B-movie a tutti gli effetti. Ah sì, indubbiamente, però il punto è che Morricone ha questo merito straordinario di aver riportato la musica al centro della sceneggiatura, parte viva della sceneggiatura, partendo da questi film popolari che dicevi tu. Nel 64 arriva Per un pugno di dollari e la musica è un personaggio, lui si rincontra il vecchio compagno delle elementari Leone, che di fatto stava plagiando amorevolmente un film di Kurosawa col suo Per un pugno di dollari, e chiedeva allo stesso Morricone di plagiare un po' la musica di Pionkin, di Un dollaro d'onore, il Degheio. Invece Morricone tirò fuori una vecchia cosa che aveva fatto per la televisione, per O'Neill la rifece, chiamò Lacerenza, un trombettista del sud, e crearono questa sonorità potente, lacerante, appunto, che richiama anche al mondo sia dell'opera ma anche delle bande, molto italiano, profondamente italiano, così come era lo sguardo antiepico di Leone. Non c'era più il western all'americana col mito della frontiera, ecco, quando Leone diceva di Ford che guardava fuori dalla finestra e vedeva un grande prato fiorito, Leone vedeva il deserto di pietra e di suoni, di fruste, di fischi, di schiocchi rurali, che poi è il mondo sonoro di Morricone e Leone, cui poi la Cerenza ha dato il suo contributo. Diciamo, si erano inventati un genere, hanno film girati nelle colline della Tolfa, sopra Santa Severa. In realtà in Almeria, quelli più poveri non erano, dove dici tu, ma loro giravano in Spagna, in Almeria soprattutto, negli altopiani dell'Almeria spagnoli, e quindi c'era questa dimensione che però richiamava l'Italia del Sud a questi deserti assolati, a queste facce ignanti, feroci, che erano più vicine al mondo di Verga che al mondo di Ford, del mito della costruzione della frontiera. Lui ne canterà poi La morte, C'era una volta il West. Però questa sonorità lirica profonda che creava Morricone era un personaggio, stralciava pagine di sceneggiatura, era meglio di tanti dialoghi, anche un suono secco. Su un volto, su un primo piano, assumeva una pregnanza fortissima e rendeva non necessarie le parole, superflue, bastava quello, ed è quello che noi ricordiamo. Ma questo era già nel cinema delle origini, e Eisenstein già ce l'aveva messo, l'aveva teorizzato. Leone e Morricone lo portarono nel grande cinema popolare, lo portarono accessibile a tutti, alle grandi folle che affollavano. Allora ti faccio una citazione, mi sono rivisto pochi minuti fa la scena del duello del buono, il brutto e il cattivo, e vedo che ancora ci sono persone che la seguono, la riguardano, una scena lunghissima in cui in realtà non accade niente per oltre 6 minuti, scambio di sguardi, primi piani sulle pistole, sulle mani, e alla fine poi si risolve tutto in una sparatoria, anche se stranota, in cui uno, il cattivo, va a finire dentro una fossa, ecco, e finisce così questo duello. Facciamo ascoltare un attimo l'audio del buono, il brutto e il cattivo, e chiediamo agli ascoltatori di chiamare all'800240024 e cominciarci a dire quali sono i momenti della propria vita che associano comunque a un film con una musica di Ennio Morricone, il buono, il brutto e il cattivo. Vedi, Bill Carson, qui si risponde presente. Non hai sentito? Rispondi presente. I tipi grossi come te mi piacciono, perché quando cascano fanno tanto rumore. Ti ricordi, Giuseppe, quella volta facevamo una trasmissione di Melog e incitammo il pubblico a rifare con la bocca il rumore dello sparo con quel memorabile, fischio memorabile. Dei film. Fu una trasmissione memorabile, ancora oggi se qualcuno vuole, arma per arma, la Colt, il Winchester, la pistola con la canna allungabile del cattivo, erano bravissimi gli ascoltatori in questo. Sì, sì, c'era tutta una variazione degli spari e dei suoni. Qui ho sentito appunto il fischio che richiama veramente a un mondo di cattiveria e di ferocia rurale, di lotta per la roba piana. Infatti per un pugno di dollari, se vuoi, è veramente la lotta per la roba dei malavoglia e quel mondo lì. Non ci sono più gli Apache come cattivi, non ci sono più le dirigenze di ombre rosse, c'è il bianco che lotta col bianco, con messicano, minoranze in lotta tra loro, ma solo per i dollari. Sì, lui si è inventato i messicani perché era più facile. Prima era più facile trovare le facce dei messicani. Secondo, risparmiavi in cavalli, risparmiavi in penne, risparmiavi in scene con pelle rossa che correvano. I messicani erano il classico poraccio che trovi in tutto il mondo, capito? Quindi desolazione, case, potrebbero essere le case, le masserie pugliesi che tu ben conosci, qualcosa del genere, e fine, era risolto il problema. Sentiamo Roberta da Torino, prima ascoltatrice. Roberta. Pronto, buongiorno. Ma cosa allora, lega lei della sua vita a una musica di un film con Ennio Morricone? Tantissimi momenti. Io ho 51 anni, però ho cominciato a sentirlo quando, col mangiadischi, quando mio papà lo metteva ai 45 giri, nello specifico i western. Poi mi sono evoluta e ho cominciato a sentire un po' tutto il repertorio, e i momenti proprio più salienti sono quando è mancata la mia cagnolina nel 2014, in cui ho sentito nello specifico Anastasia di Morricone tipo 56 volte piangendo tutta la notte. E poi, ma perché legava, scusa, la morte alla povera cagnolina? Non lo so, perché questa a me c'è un succede. Le dava conforto? Non lo so, mi faceva piangere, siccome in quel momento io ho bisogno di buttare fuori il dolore, lo interpreto così, probabilmente quello era una melodia che mi scatenava questa cosa. Ma nello specifico io, non so, vado a correre e nella playlist ho tantissime musiche di Morricone. Arriva il momento epico del bel panorama, l'adrenalina e tutto, cioè arriva la musica di Morricone e io scoppio a piangere. Tipo metti una sera a cena. Quindi quando ha bisogno di piangere mette una musica di Morricone. No, in realtà perché mi scatena veramente moltissime emozioni. E poi l'ho visto anche in concerto una volta sola, purtroppo a Torino nel 2006, e mi ero sempre ripromessa di andarlo a rivedere, poi è successo quello che è. Però per me Morricone è proprio un punto cardine delle mie emozioni. Mi dice in particolare, a parte questa musica che adesso sentiremo Sansonna, se lui nella sua capacità di leggere quello che il normale spettatore non vede nei film, ci dice sia un nesso tra il film che lei ha citato. Quali film? Ce lo ridice? Anastasia è la musica. Ecco. Giuseppe Sansonna. Della cagnolina, poi metti una sera a cena tutta la colonna sonora, ma nello specifico. E quello cosa le ricordava? Metti una sera a cena, cosa le ricordava? Ma guardi, mi ricordava semplicemente delle musiche che io sentivo perché erano le sentivano. Ma fermo un attimo, gliela facciamo sentire un attimo. Sì. Abbiamo la clip, metti una sera a cena. La senta, chiuda gli occhi e poi ci racconti l'immaginario nascosto e rimosso che emerge per questa musica. E spero non nel fantasma della povera cagnolina. Ah, sono amata. Sapete, sono amatissima. Qualcuno si è innamorato a tal punto di me che non vuole più dividermi né con mio marito né con nessun altro. Che faccio allora, Michele? Ti lascio e vado via con lui? Ascoltatrice nel frattempo si è dileguata, soffocata. Mi sto struggendo. Ah no, c'è ancora. Ah, si sta pensando, non la vedevo più nelle. Quindi si sta struggendo. Ma perché le piaceva questa musica? Cosa le ricordava? Passioni, amori, concupiscenze. Nostalgia. Carnalità. Mi crea molta nostalgia di un po' di tutto, cioè mi fa stare bene, non saprei descrivere, non è un momento legato a un momento particolare, perché l'ho sentita talmente tante volte che avrei mille momenti da associare. Quindi lei quando vuol piangere mette la musica Anastasia, no, per la cagnolina morta, quando vuole star esatto. bene mette questa. Anche sì. Giuseppe sì. Sansonna, cosa vedi legala anche all'immaginario del film, perché sennò sembra che sia soltanto la musica. Nel caso della cagnolina e nel caso della vertigine sensuale che le suscita questa seconda canzone. Come la cagnolina laica, sparata appunto dai sovieti fino nello spazio. No, sicuramente Anastasia è un momento epico. Questo in particolare mette in accelerazione, per me è la leggerezza borghese degli anni 60, la felicità anche appunto concupiscente, come dicevi tu, degli scambi, della possibilità di avere più relazioni, ma è proprio il frizzante, l'aspetto frizzante e abbandonato e voluttuoso degli anni 60, questa musica, è anche un po' l'eredità del Morricone, che era arrangiatore di pezzi come Se telefonando, se ci pensi, c'è un legame forte lì prima di diventare... Le parole sono di Maurizio Costanzo, Se telefonando, se non sbaglio. Sì. Però c'è è quello stesso tipo di clima, è quello stesso tipo di suo eclettismo, di Morricone, di spaziare da diversi mondi, da quello appunto dell'epica feroce, un po' grottesca e molto grottesca di Leone, a quello appunto di questi contesti alla Patroni Griffi, con Florinda Balkan, l'eleganza femminile, l'abbandono, la leggerezza, il senso di tragedia che incombe dietro la leggerezza. Riusciva a mettere tutto, erano potenti ed emotive frammenti di sceneggiatura. Questo era quello. Ecco, ci fermiamo solo un istante, Giuseppe, che già sono un minuto fuori, andiamo con la borsa, poi riprendiamo subito. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. E ora sparisci e cerca di non farti più vivo. Irlandese pezzo di merda! Ti credi di essere l'unico uomo sulla terra ad avere le palle, vero? E invece no, anch'io ho le palle e resto qua! Zero zero ventiquattro. Oggi ricordiamo, come faranno tutti in Italia oggi, Sergio Leone, cioè Ennio Morricone. Questa è Giù la testa di Sergio Leone, questa è una musica stranota. Giuseppe Sanzonna ci segue in questo ricordo di Ennio Morricone. Su questa musica ne parlammo, mi ricordo, Giuseppe, in passato. C'erano cose da dire. Sì, questa è Sean Sean, ma questo è un film in cui si parla della rivoluzione messicana, cioè, abbiamo sentito anche la voce di Carlo Romano che doppia in maniera beffarda Rod Steiger, che è il messicano che prende coscienza della sua condizione di miseria e viene portato alla rivoluzione dal più evoluto irlandese James Coburn. E quindi qui c'è l'epica, c'è questo coro, c'è questa dolcezza che si mescola al beffardo, al grande respiro, alla brutalità della musica. Morricone mescolava tutto, perché veniva anche dall'avanguardia, dalla nuova consonanza di cui faceva parte. Era il suo eclettismo, il suo surfare tra vari mondi con intelligenza e con capacità di riassimilare linguaggi popolari e trasformarli in sintesi espressive che davano al cinema un respiro e una profondità diversa. Qui appunto c'è l'epica, c'è la nostalgia di un mondo che poteva essere diverso della grande rivoluzione mancata, come un po' tutte le rivoluzioni, no? Che svela sempre sul lato impossibile alla fine, e l'utopia che frana appunto nella nitroglicerina. E questo lo rende benissimo. Il connubio Morricone-Leone era perfetto in questo, cioè avevano una sintonia totale. Addirittura Leone faceva ascoltare agli attori la musica di Morricone sul set da un certo punto in poi, forse dal secondo film comincia in maniera più assidua questo, e entravano nella sintonia espressiva della loro recitazione ascoltando quella che sarebbe stata poi la colonna sonora, e questo è un aspetto interessante che faceva parte del loro modo di lavorare. Allora, intanto io ringrazio Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli che mi mandano in onda da Milano, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Chiamo gli ascoltatori a raccolta all'800240024, appunto per dirmi momenti importanti della loro vita segnati dalle musiche di Ennio Morricone che hanno ascoltato in film memorabili. Carlo da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io volevo fare una cosa un po' diversa. Io faccio parte del coro di Vicenza come tenore. E la prima proprio settimana in cui feci il mio inserimento nel coro, il maestro Fracasso stava preparando proprio un concerto dedicato alle musiche di Morricone. E la differenza mia è che sono entrato proprio nell'intimità delle note e cantare Morricone dopo averlo ascoltato una vita, per me oggi ecco è un giorno tristissimo, come se fosse mancata veramente una persona cara. Speriamo di riuscire a superare anche a livello musicale questo momento, perché personaggi così difficilmente riusciranno a rinascere in Italia, sicuramente. Ma questo non è detto, non ci poniamo limiti, anche si spera che ne rinascano tanti e continuino a far sognare quelli che verranno. Ma la riuscirebbe così a braccio? Mi rendo conto che sono richieste brutte e fastidiose, non è obbligato, però mi piacerebbe sentire quello che è il suo repertorio legato a Morricone, visto che per lei un ricordo sarebbe il suo omaggio personale. Se le va di farci sentire qualcosa, noi siamo qui a sentirla. Allora guardi, mi mette veramente in difficoltà, perché oltretutto sono difficilmente riuscirei a fare un vocalizzo. Saputo stamattina, se vuole, l'unica cosa che riesco a fare è fare una fischiata, che spero non essere... Quello è ancora meglio per noi, non avendo strumenti raffinati di lettura, la fischiata... Ma perché, scusi, un tenore fischia pure, l'insegnano, fa parte, diciamo... No, lei è un particolare, un tenore fischiante per sua passione personale. No, è che quando sono triste o allegro io canto, a seconda del momento. E adesso vocalizzare i brani... No, ma una fischiata intonata, mi piace molto. Sansonno ha già i brividi sulla pelle. Sì, sì. Io faccio una fischiata di Gabriel Soboe, il più breve possibile, e chiedo scusa al maestro Morricone se la faccio. No, sarà contento. Proviamo? Sì, siamo qui. Vada. La interrompiamo perché fra un po' dobbiamo dare la linea, però veramente rimarremmo ad ascoltarla fino a questa sera. Giuseppe Sansonna, il nostro tenore fischiante, è stata una scoperta. Straordinaria, questa era Mission, e mi preme omaggiare Alessandro Alessandroni, che era il grande fischio di Morricone, il grande fischiatore di suoi film, ed era veramente un genio assoluto e ha conferito a questo tipo di sonorità, questa richiesta da Leone, ancora una volta una sfumatura popolare che lo legava al mondo appunto bandistico, al mondo rurale, contadino e verghiano di cui accennavo prima. Mi scrive un'ascoltatrice affranta che non può smettere di piangere perché aveva regalato tutta la raccolta delle opere di Morricone a un lestofante che colse il frutto del suo amore e poi l'abbandonò. Dice: ah, l'avessi regalata a te. Lo so, pazienza, però l'avrei lasciata lo stesso sicuramente. Stefano da Catanzaro. Salve, dunque io volevo ricordare la canzone di, appunto, che è stata già citata di Mina, Stai telefonando, che prima di tutto secondo me è la più bella canzone di Mina. E poi io ero piccolissimo, ero ancora incosciente, ed è una delle prime canzoni che ricordo, diciamo. E poi come secondo esempio la colonna sonora della Piovra, che mi ricorda appunto quando tutta la famiglia seguivamo, eravamo incollati al televisore a seguire questa Piovra, che è durata circa 12 anni, credo. Quindi mi ricordo anche la presenza dei miei genitori, che non ci sono più, e poi ricordo questi due temi della Piovra, di cui appunto c'era quello delle scene paurose, delle scene tragiche, e poi c'era il tema delle scene dolci e delle scene struggenti, insomma. La sto mandando a volume esagerato, naturalmente. Sto sentendo. Sa, è la morte di un giusto. Giuseppe Sanzonna, su questa fase però, diciamo, del Morricone Piovra, oggi ancora, diciamo, non ha avuto modo tutti di parlare né scriverne, è qualcosa che ci si ricorda meno, però è stato un fenomeno televisivo importante e anche quello, diciamo, era sottolineato comunque sempre dallo stesso pathos che diventa un protagonista stesso del racconto televisivo. Poi aveva un antecedente molto illustre che era la sua collaborazione con Elio Petri per Indagine su un cittadino disordine ogni sospetto, che anche quella è una sorta di saggio che coniuga musicalmente Kafka e Sciascia, il mondo delle allora delle senti, questure. Siccome ce l'abbiamo questa parte, la facciamo ascoltare fra un istante dopo la pausa che dobbiamo fare e così la commentiamo. Quello veramente mi viene nostalgia tutte le volte che abbiamo parlato di questi film insieme, Giuseppe, e questa mattina l'occasione è sicuramente triste, però mi fa ricordare anche quanto abbiamo analizzato noi l'evoluzione del nostro paese attraverso il racconto, il film, la commedia, un'operazione che raramente viene fatta, perlomeno vengono mandati film di repertorio senza pensare che in realtà sono state una delle tracce più importanti anche del racconto giornalistico del nostro paese. Ci fermiamo un istante. Melog. Dai dritto, tu puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, mao, limpiao, tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia? Ecco, qui Giuseppe Sanzonna siamo in un altro clima, non è la rilettura del Selvaggio West, ma è l'idea che in realtà ci possa essere una sorta di limaccioso strapotere che protegge i suoi tutori anche oltre ogni ragionevolezza e ogni giustizia. E questa musica sembra perfetta, è una musica insinuante, incessante, ripetitiva, e dall'idea che comunque, anche se va oltre questo commissario, comunque va sempre l'impunità. Questo ragazzo non aveva fatto nulla. Quella, la famosa scena, non sei un cavallo, mi sembra, no? Quando tortura un presunto anarchico che in realtà non aveva fatto nulla. Sì, sì, tu non sei un cavallo, sei un cittadino democratico, dice. La musica è perfetta perché sintetizza, come dicevo prima, Sciascia e Kafka. Se vuoi sospetto insinuante anche da commedia, si mescola la tragedia che c'è nel film, è tutto in perfetto equilibrio e la musica diventa un personaggio, una colonna sonora espressiva che evoca tutto e tiene insieme tutto e si affianca ai primi piani potenti, all'odore di fureria, di lucido da scarpe, di Bob Barba tipico del poliziotto siciliano di quegli anni, del questore appunto che vive di impunità, che è un personaggio cardine di quella contemporaneità. Allora abbiamo Chiara da Brescia. Chiara, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Io potrei solo dire che ho amato fin dall'inizio le musiche di Morricone, grazie a mio padre mi faceva vedere i film western di Leone e tutte le volte che passava Il buono, il brutto e il cattivo era una festa, continuavamo a guardarlo, quasi le battute le conoscevo a memoria. E mi sono innamorata delle musiche di Morricone, tanto che ho detto a mia figlia, che ora ha 22 anni, quando sarà il mio momento, la mia dipartita, deve assolutamente far suonare una porzione dell'Arena di Morricone. Direi proprio la tromba, quella che parte dal minuto e 50 dall'inizio. È meravigliosa, la trovo struggente, la trovo piena, cioè, di significato. Già si è preparata la musica per, sì, il funerale? Assolutamente sì, bisogna essere previdenti, no? A parte gli scherzi, credo che sia proprio una musica piena di significato e di tutto ciò che significa per me andarmene. Ecco, sarà quello, spero, il momento in cui... Ma lei sarebbe già andata in quel momento, quindi non la potrebbe sì, sentire. Certo che no, però l'idea solo che ci sia mi... Ti dà conforto. Piace. Esattamente, esattamente, è vero. Questa, sì. Questa è un'altra prova di quello che stavamo dicendo, quanto in realtà sia una musica che segna profondamente anche le vite delle singole persone, più che magari canzoni legate a un film, legate a degli interpreti, legate a una storia, sono naturalmente un insieme, una sinestesia che coglie i nostri sensi attraverso vari punti d'entrata, quindi rimangono impresse. Alessandro da Monza. Sì, buongiorno Nicoletti. Ascolto. Sì, vabbè, ho visto questa telefonata dicendo che abbiamo davvero perso un altro pezzo importante, italiano, di personaggio italiano. Detto questo, niente, come dicevo al centralinista, a me la colonna sonora dell'ultimo dei Moicani ha fatto in modo che l'ho sentito al pianoforte, chiaramente il capolavoro del film, eccetera, eccetera, l'ho sentito al pianoforte e mi ha stregato, mi ha fulminato, e lì ho cominciato a suonare il pianoforte. Ho cominciato a suonare il pianoforte a 45 anni. Cioè, per davvero sangue e sudore, ma è stata... Immagino faticosissimo iniziare sì, così tardi a suonare il pianoforte, è una grande volontà ci vuole. Sì, ma, ed è stato quella musica lì, quella colonna sonora lì, che poi io metto anche quando faccio, sono un insegnante di stretching, anche metto quando faccio lezione, non lo so, mi dà, quello che la faccio breve, quello che mi dà una commozione energica, cioè io mi commuovo, ma allo stesso tempo è come se sento un pezzo di heavy metal, di quelli più duri che ci possano essere, non so, è spiegabile, ma quello che mi dà questo, che mi dà, vabbè, questo nello specifico, quindi questo pezzo, in questa musica, in questa, chiamiamola come vogliamo, mi dà questo, e me lo dà sempre, non è che se la, io l'ascoltatrice di prima che 56 volte, ma anch'io guardi che io in macchina me la sono sentita, me la sento anche, ho provato a sentirmi anche 20 volte una dopo l'altra, cioè ripetutamente. E questo comincia, è un dato che comincia a essere interessante. Giuseppe Sansonna, vedi, stanno raccontando il nostro ascoltore di musica, anche di film che non fanno parte della filmografia classica, che metti nei primi titoli del necrologio appunto a Morricone. Pensa, questo ascoltatore, la musica della sua vita è la colonna sonora dell'ultimo dei Moicani, è un film assolutamente importante, però difficilmente lo ricorderanno le persone che hanno meno di 50 anni, 60 anni, capito? E lui se la rimette continuamente, la usa anche come musica di supporto nel suo lavoro. Questo è un effetto molto singolare, molto particolare. È molto interessante perché evidentemente Morricone è davvero stata la colonna sonora collettiva di un intero paese e non solo, è esondato anche dai confini nazionali, però per noi di diverse generazioni ha rappresentato qualcosa con diverse sfumature di sentimento anche di genere relativo ai film, però evidentemente c'è qualcosa che cattura un'universalità musicale e ci appartiene e oggi l'abbiamo perso e lo sappiamo, lo sentiamo. Luca da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto volevo fare un saluto al gruppo Telegram Melo che ha parlato, di cui faccio parte orgogliosamente. Sì, beh, sono contento. Ecco, in questo momento pensa, devi capire che ogni tanto capita di avere una finestra chiusa, non ho fatto in tempo questa mattina di aprirlo, adesso ce l'ho davanti, l'ho aperto in questo momento. E stanno, diciamo, è un gruppo di fedelissimi, ormai sono migliaia, che ci seguono tutti i giorni, ascoltano e commentano la trasmissione in diretta, è qualcosa di molto interessante. Io spesso mi dimentico di loro, ma per mia negligenza, e non li gratifico dandogli quello che gli avevo promesso, l'anticipazione di tutte le puntate, ma è colpa mia, sono io a essere un cialtrone, e loro comunque sono sempre lì fedelissimi. E mi sta raccontando Edna che al funerale di suo zio è stata suonata in chiesa un brano di Morricone, Giù la testa, vedete? Sono musiche da funerali ma anche da momenti importanti della vita. Allora Luca, dai, cosa volevi dire? Allora, sì, il mio ricordo di Morricone praticamente è legato ai concerti che Bruce Springsteen fa in Italia, perché lui praticamente apre i suoi concerti solamente in italiani, ci tengo a precisare, con la canzone C'era una volta il West. Quindi questo per me insomma è un motivo di orgoglio doppio. Primo perché comunque è un artista di questa caratura internazionale, comunque omaggia un artista forse più grande di lui, e questo, essendo praticamente un artista esclusivamente italiano, è una cosa che mi rende doppiamente orgoglioso. Quindi i miei ricordi sono legati a, insomma, sono legati a un campo espressivo che sembra antitetico. Una battuta, mancano 30 secondi, Giuseppe Sansonna, mi dici Morricone Tarantino in una battuta al rapporto? Beh, è straordinario, così come Leone è stato rielaborato da Tarantino, Tarantino ha voluto assorbire anche quella che era la sua colonna sonora portante e l'ha riportato nel suo cinema. Gli archetipi sono gli stessi a cui fanno riferimento, e quindi conferma l'internazionalità di Morricone. Grazie mille Giuseppe Sansonna, spero di avere altre occasioni, non sempre in occasioni di morte e scomparse, ma per occasioni anche liete. Alla prossima!